Art City Arte Fiera 2025, siamo in uno dei posti più magici di Bologna. Pensate che non tutti i bolognesi lo conoscono. C'è un po' di rombombo, ma va bene lo stesso. Intanto siamo in compagnia di Anna Caterina Masotti per la mostra Te Amaris. È già dal nome una divinità è protagonista. Sì, la dea del mare sarebbe Te Amaris, esatto. E infatti vediamo dalle prime sensazioni che quale miglior luogo in Bologna, città d'acqua, esoterica, nascosta, che in questo caso viene svelata. Con che percorsi? Allora, questo era proprio un luogo magico che dal 1563 appunto portava l'acqua alla fontana di Nettuno, per cui visto che la mia mostra ha in diverse foto, come vedrete, l'elemento acqua, che è una potente simbolizzazione del femminile, per cui mi piaceva che ci fosse questo connubio appunto con l'acqua, e ho pensato che questo fosse proprio il luogo ideale per esporre le mie foto. Perdonate la mia emozione malcelata, ma tra una classicità che ci riporta a tempi antichi, che per me diventano tutti i tempi, la bellezza dell'esposizione, la bellezza del luogo, penso che anche tu sia un po' emozionata. Io sono molto emozionata perché questo luogo è davvero magico, è la prima volta che l'ho visto, me ne sono totalmente innamorata e mi vedevo già le mie foto, perché le mie foto sono sempre stampate su tessuto, su chiffon di seta, e sono ricamate a mano, e per cui con questo progetto volevo fare proprio un'esplorazione visiva della bellezza e dell'armonia, e quindi diciamo questa leggerezza di questi tessuti con questo contrasto così antico mi piaceva proprio il connubio, per cui insomma penso di aver trovato il posto giusto. Io la chiamo Venere in questo caso, che nasce l'Afrodite, sì. Che nasce dalla spuma, la Venere ciprigna, esattamente, esatto, dalla esatto. Spuma un po', diciamo, l'ispirazione mi sono così sono andata indietro a rivedere i canoni classici, quindi sono andata a rivedermi Afrodite e anche, se vuoi, le pose un po' classiche delle statue di Prassitele. Mi sono proprio rifatta a quel tipo di movenze, a quel tipo di grazia, in effetti si vede nelle pose, per poi invece affrontare una tematica più attuale, che è quella dell'adolescenza, che dei tempi nostri, e quindi come le giovani affrontano questo momento importante di transizione, che è un po' come il mare stesso, che è il simbolo della rinascita, no? Dell'energia della rinascita, per cui cosa c'è all'interno del mare? C'è mistero, c'è transizione, c'è trasformazione, e quindi un po' volevo unire queste due cose, no? E il mare rispecchia un po' questo periodo fondamentale degli adolescenti, che è quello proprio della transizione. Mi sono permessa di citarla in traduzione latina, Venere, perché il luogo dove siamo, pensate che dalla prima scoperta, che non è poi troppo da andare indietro nel tempo, si pensava che fossero appunto resti di architetture romane. No, sarà dopo, il nome Bagni di Mario, sì, ovviamente ha le sue origini, però è una raccolta per convogliare le acque alla fontana del, sì, Nettuno. 2 chilometri in realtà. Pensa. 2 chilometri, e portavano appunto l'acqua alla fontana vecchia, alla fontana di Nettuno. Ma è stato proprio fatto nello stesso anno da Tommaso Laureti, sì, dall'architetto, e appunto che ha studiato questa meraviglia che portava le acque alla nostra città. E il suono? Allora, il suono ci sarà. Ok. Ce l'abbiamo. Allora, voglio fare un DJ set o no, di musica ambient. Ce l'abbiamo. Ho scelto, io per le mie mostre normalmente faccio sempre una composizione, scegliendo vari autori ogni anno. Quest'anno ho scelto Max Richter, che io ti amo. Abbraccio. Che io amo totalmente. Ti abbraccio. E ho inserito all'interno di questo brano, ho appunto inserito l'elemento acqua. Per cui ci sarà il rumore delle onde, il rumore del sottofondo marino, e quindi insieme abbiamo composto insomma un qualche cosa di che fosse molto suggestivo per il posto. Già di per sé, amplificatore di emozione. Già di per sé, con la musica, ma perché mi piace coinvolgere tutti i sensi, per cui dal tatto, perché si possono toccare le mie opere, e si possano accarezzare, sono molto morbide, hanno questa, lo chiffon di seta è un meraviglioso materiale, per cui si può toccare. Ci sono i ricami che si possono toccare, la vista ovviamente c'è, e anche il suono era veramente importante. E poi abbiamo anche l'olfatto, che ancora non lo sentiamo, ma ci sarà anche quello, un'essenza proprio di sale marino, che ho scelto proprio per chiudere il cerchio, diciamo così. Ed è dal primo momento, subito oltre che le grandi emozioni, veramente una mostra da non perdere. Io ringrazio tanto Studio SC, che seguo per diverse esposizioni in tutta Italia. Saperli a Bologna, ovviamente, il posto magico, l'artista ispirata, non potevo perderlo. Grazie di cuore. Grazie molto a voi.